Ed eccoci ancora insieme, cari ascoltatori, per aprire oggi un nuovo argomento nella vita del curato d'Ars. Mi pare che queste ultime puntate siano davvero assai interessanti. E quest'ultimo capitolo, che precede la narrazione della sua morte, anzi del suo ultimo anno di vita, mi pare che sia particolarmente interessante, dato l'argomento che certo ha sempre suscitato, ma forse oggi più che mai suscita molto molto interesse nel buon popolo di Dio. E si tratta precisamente dei fatti mistici nella vita del curato d'Ars. Abbiamo già detto, e ci teniamo a ripetere, che la santità non consiste in queste cose, vero? Che queste sono cose, sono doni gratuiti che Dio fa liberamente alle anime, e che non sempre e non necessariamente sono legate ai meriti di una persona, vero? Uno può essere santo e non avere nulla di tutto questo, mentre uno può essere un mediocre e avere qualcuno di questi doni che Dio distribuisce liberamente a chi vuole lui. E dobbiamo aggiungere che questi doni, come tutti gli altri doni, sono dati in genere per il bene degli altri, prima di tutto, e secondo, sono quindi delle grosse responsabilità per chi li riceve. Quindi, come ripeto, la santità non consiste in questo. Però dobbiamo anche dire, carissimi, che se non sono prove della santità, tuttavia in genere accompagnano la santità, vero? E chi ha visioni e rivelazioni, se non è un inganno, è in genere una persona di grande virtù. Anzi, dobbiamo anche aggiungere che spesso questi doni giungono quasi come premio all'amore e alla perseveranza di queste persone, che dopo aver molto lottato e sofferto per il Signore, ora viene loro concesso di goderlo anche un po', di immedesimarsi un po' più in Lui. E questo in modo anche proprio sensibile, per ricevere quasi sollievo, conforto nelle loro pene, e così per poter continuare con più lena il loro cammino sulla terra e la loro missione in attesa del grande incontro finale e conclusivo della vita. E allora, cominciamo. Seguendo come sempre passo passo il nostro biografo, San Paolo dice: bisogna vantarsi, ciò non conviene, pur tuttavia verrò alle visioni e rivelazioni del Signore, Seconda Corinzi 12:1. Ecco, così esordisce San Paolo all'inizio del capitolo 12 della Seconda Corinzi. E sapete che al verso 12 dello stesso capitolo San Paolo dice: certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza tutta prova, con segni, prodigi e miracoli. Per cui dice il biografo che anche noi, giunti a questo punto della vita del curato d'Ars, basandoci su pochi ma sicuri documenti, non tralasceremo di fare qualche accenno alle meraviglie più straordinarie delle quali fu da Dio favorito. Ecco, sappiamo che San Paolo, prima di riferire i grandi fatti mistici della sua vita, quasi si scusa, vero, coi lettori. Si scusa presso i fedeli di Corinto, certamente perché è sempre pericoloso esaltare se stessi. Ma dice che ha anche buone ragioni per non tacere, poiché ai suoi nemici, che gli vorrebbero negare il mandato divino nella Chiesa, oppone come prova i fatti mistici. Invece attenti, a Don Vianney, che era nascosto nell'umile villaggio di Ars, senza avere come San Paolo la sollecitudo omnium ecclesiarum, sembrò cosa migliore offrire ai suoi nemici personali un rassegnato silenzio. Ecco, badate, mentre non ha mai fatto mistero dei suoi contrasti con l'inferno, amò invece nascondere quanto faceva parte delle sue comunicazioni col cielo. E questo lo constatò per primo Don Monnin, che ebbe l'incomparabile fortuna di vivere a lungo vicino a lui. Sentiamo cosa dice. Attenti, dice: il servo di Dio non parlava mai dei favori divini di cui era oggetto, ed era evidentemente infastidito delle domande che gli si rivolgevano su questo argomento. A tali domande non dava che risposte evasive, soffermandosi di preferenza su ammirabili fatti della vita dei santi, di cui conosceva anche i minimi particolari, oppure troncando il discorso con elevate espressioni di amor di Dio. Cosicché i segreti delle sue comunicazioni mistiche non li abbiamo quindi raccolti da lui, ma piuttosto da alcuni testimoni. Ecco, però dobbiamo dire, carissimi, che qualche volta si tradì da solo, senza accorgersene, cedendo a una troppo viva emozione o lasciandosi sorprendere da domande insidiose. Così, per esempio, un giorno arriva alla Providence col volto infiammato e davanti a Caterina Lassagne si lascia sfuggire queste parole: «Oh, che grazia, che felicità, che fatto straordinario!» «Ma dove, signor curato?» chiede Caterina dopo un momento. Risposta: «In chiesa, in chiesa!» E non poté aggiungere altro. E qui il biografo cita Bossuet, il quale dice in una sua conversazione, dice: «Le grandi cose che Dio compie nell'intimo dell'anima lasciano muti, stupefatti, producono un non so che di divino e di inesprimibile». Ecco, cosa aveva dunque visto il curato d'Ars quel giorno? Beh, forse aveva visto quella processione di santi di cui parlò un giorno a suor Caterina Lacand e della quale aveva conservato un vivo ricordo. Beh, adesso, dopo questa introduzione, carissimi, vogliamo considerare i fatti mistici della sua vita avvenuti innanzitutto durante la celebrazione della Messa, della Santa Messa. Coloro che hanno avuto la fortuna di assistere alla sua Messa hanno potuto constatare, diciamo, la trasfigurazione che si operava nella sua persona durante detta celebrazione. E di questo era conscio lui medesimo, tanto che giunse a raccomandare alle orfanelle della Providence di non guardare il sacerdote quando celebra. Ecco, il biografo dice che la fede aveva fatto di lui un angelo e l'amore un serafino. E queste qualità si manifestavano in modo straordinario appunto quando era all'altare, illuminando i suoi occhi e dando al suo viso un'espressione mirabile. Un certo Andrea Trev, suo parrocchiano, ci dice di aver osservato che durante la messa il suo contegno raccolto aveva tutte le apparenze dell'estasi, per cui si era portati istintivamente a guardare se casomai i suoi piedi non si alzassero da terra. Del resto, carissimi, il santo medesimo confessò che qualche volta le specie eucaristiche erano state per lui il solo nutrimento. «Avevo fame durante la messa», disse un giorno a Caterina, «ma quando mi sono comunicato ho detto al Signore: nutrite l'anima e il corpo, e la mia fame scomparve». E sappiamo che alcuni dicevano: «Penso che verrà tempo in cui il curato d'Ars non si ciberà altro che dell'Eucaristia». Difatti il santo aveva detto un giorno: «Dopo la consacrazione, quando tengo il Signore tra le mie mani, io dimentico tutto». E se queste parole le trovate un po' oscure e non abbastanza convincenti, ne abbiamo altre che ci sembrano ancora più esplicite, quando disse, per esempio: «Durante la messa, quando si prega il Signore per i poveri peccatori, egli manda ad essi raggi di luce perché scoprono le proprie miserie e si convertano». E questa mi sembra una frase, carissimi, da scrivere a caratteri cubitali, vero, nel quaderno di appunti di ogni sacerdote. Noi sacerdoti abbiamo un grande potere. Attenti, non solo il potere di transustanziare le specie eucaristiche, non solo il potere di rimettere i peccati, ma anche, direi, il potere quasi di disporre del Signore durante la messa. Noi ce l'abbiamo lì, è nostro, è nelle nostre mani. Noi ci affidiamo tutto a Lui, ma anche Lui in un certo senso si affida tutto a noi. Perciò, nel senso buono, nel senso migliore, in quel momento possiamo anche in certo senso approfittare di lui, vero? Certo, e state pur tranquilli che egli non è per nulla offeso per questi approfittamenti e per questa dolce violenza che gli facciamo, anzi, specie quando il motivo della nostra violenza è appunto la preghiera in favore dei poveri peccatori. Ecco, come gradisce, quanto gradisce il Signore questa preghiera fatta in questo particolare momento? E com'è efficace? E come aiuta queste care persone? E penso che ogni sacerdote deve vedere questi momenti non solo come momenti di grazia, ma anche proprio come momenti strategici nella sua vita sacerdotale, come momenti tattici, dove sa di ottenere quasi tutto dal Signore, dove sa di poter quasi costringere il Signore a esaudirlo nei suoi santi desideri di bene e di conversione delle anime. Ecco, a conferma che il curato d'Arsa era particolarmente in intimità col Signore durante la messa, si dice che a molte persone che lo avevano interpellato il mattino, egli consigliò qualche volta di attendere fin dopo la messa. È come se aspettasse proprio in quel momento preciso della giornata delle comunicazioni divine. A una giovane che era dubbiosa sulla sua vocazione allo stato religioso, un giorno, e incontrandola dopo la Santa Messa, diceva, col volto trasfigurato, diceva: «Figlia mia, quanto siete fortunata! Il Signore vi ha scelto per sua sposa». Un altro giorno dopo il catechismo, e mentre prendeva il suo frugalissimo pasto, appoggiato a un armadio che gli serviva da tavola, attenti, non accorgendosi che era presente una delle maestre della Providence, che era venuta nella cucina prima di lui, usciva con questa espressione: «Insomma, è da domenica che non vedo più il buon Dio». E notate, sussultò non poco quando la maestra, che tutto aveva inteso, gli domandò: «Dunque, prima di domenica lo vedevate?» E il santo, nel turbamento di essersi in qualche modo scoperto, no, svelato, non rispose più nulla. Verso il 1850, durante un catechismo delle 11, diceva: «Noi siamo così terreni che la nostra fede ci mostra le cose soprannaturali come se fossero lontane 300 leghe e come se Dio fosse al di là dei mari. Se avessimo una fede più viva, lo vedremmo certamente nell'Eucaristia». E conclude così: «Ci sono dei preti che lo contemplano ogni giorno celebrando la messa». E quasi certamente parlava, alludeva anche a se stesso. Ma qui, carissimi, ci poniamo il problema. Se Don Vianney vedeva Dio, in che modo avveniva questa visione? Ecco, la risposta del biografo, che condivido pienamente, è questa. Pensiamo che non ci sia stata mai apparizione esteriore, probabilmente era invece solo la parte superiore dell'anima che percepiva l'ineffabile e l'invisibile, come lascia comprendere egli medesimo in un'espressione sfuggitagli in un momento di intima confidenza con un sacerdote suo amico. Bene, riandando ai primi anni di apostolato, che egli chiamava gli anni delle grazie straordinarie, diceva: «All'altare avevo grandi consolazioni, vedevo il Dio». Voi vedevate il Dio? Oh sì, ma non in un modo sensibile. Ma che grazia, che grazia! E queste parole, osserva il biografo, significano qualcosa di più dell'alto grado di contemplazione al quale era stato elevato da grazia di predilezione. E significano qualcosa di più anche di quell'unione mistica per mezzo della quale Dio mette l'anima a parte della sua vita e nella quale l'anima è beata in seno a Lui, rallegrata dal sentimento delizioso della sua intima presenza. Però dobbiamo osservare, carissimi, che non era ancora l'estasi corporale, nella quale, come dice San Tommaso, la contemplazione priva l'anima dell'uso dei sensi. E questo, secondo me, è un gran vantaggio nella vita di un sacerdote, vero? Sappiamo quanto il buon popolo cristiano sia goloso di queste cose e quanto possa nascere del fanatismo attorno a questi fenomeni. Per cui dobbiamo dire che il buon Dio ha favorito il suo servo anche in questo, facendogli gustare la dolcezza della vita, le dolcezze della vita divina, ma solo spiritualmente, senza la partecipazione almeno esteriore del corpo e dei sensi del corpo. Del resto il curato d'Ars era già fin troppo al centro dell'attenzione, vero? E questi fenomeni forse avrebbero influito negativamente sulle folle che correvano ad Ars, spostando forse il centro di interesse che si sarebbe orientato e concentrato decisamente su queste cose, anziché sul desiderio di rinnovare la propria vita come la propria vita con una buona confessione. Ecco, per cui amiamo ripetere che non vi è alcuna testimonianza contemporanea per la quale sia lecito affermare che Don Vianney abbia avuto vere estasi durante la celebrazione del Santo Sacrificio. No, la sua messa non fu mai più lunga del tempo necessario. E piuttosto è lecito affermare che di tali grazie fu favorito in altre circostanze, quando cioè non era visto, perciò non era al centro dell'attenzione. Facciamo allora qualche esempio per il tempo che ci rimane. La settimana santa del 49 e del 50 era venuta a confessarsi da lui una certa Suor Maria Francesca, che finita l'accusa gli domandò: «Padre, cosa vuole Dio da me?» La suora dice che dietro la grata risuonò una voce debole e dolce: «Ah, figlia mia!» E il santo continuò, come parlando fra sé, per circa 5 minuti, non so in che lingua, senza che io comprendessi nulla. Ma contentai di rimirarlo in volto, prima piena di stupore, persuasa che fosse fuori di sé e che vedesse il Dio. Ma poi, ritenendomi indegna di fermarmi alla presenza di un santo così grande, mi allontanai tutta sconvolta. Altro esempio. Nel marzo 52, verso 1:30 di notte, Don Vianney chiamava per la prima al suo confessionale Suor Clotilde, che era una giovane religiosa della Congregazione di Gesù Bambino. Bene, la suora, appena il santo ebbe aperto lo sportello del confessionale, lo vide circondato di luce. Eppure nella cappella di San Giovanni Battista, dove lui confessava, non vi era che una piccola candela dal lume fioco, che non giungeva, che non poteva giungere fino al santo. A questo punto, non senza commozione, la religiosa fece l'esame delle sue colpe e quando ebbe finito disse: «Padre mio, confessatevi», mormorò il santo, sempre avvolto in questa luce misteriosa. Docilmente la povera suora fece l'accusa delle sue mancanze. Poi aggiunse di nuovo: «Padre mio, confessatevi, ma padre, non ho più nulla da dire». Seguì un prolungato silenzio e il santo, uscito dalla sua immobilità, fece questa domanda: «E le vostre penitenze le avete sempre fatte bene?» Bastò questa parola perché nella mente della suora si risvegliasse il ricordo di penitenze compiute con negligenza, per cui se ne confessò umilmente. E quando dopo un'ora si ritirò dal confessionale con l'assoluzione, il santo era ritornato nel suo aspetto ordinario. E ora, carissimi, vi propongo quest'ultimo episodio, almeno per oggi. Nel 1849, la giovane Maria Rock, tormentata da penose angustie di spirito, pensò di ricorrere ai lumi di Don Vianney, persuasa che solo la sua chiaroveggenza avrebbe potuto aiutarla. Riuscì ad avvicinarsi al confessionale dopo una lunga attesa. E qui attenti. Nella semioscurità poté scorgere il servo di Dio che le appariva trasfigurato, con in viso 2 raggi infuocati, che con l'intensità dello splendore velavano i suoi lineamenti. Ma il biografo si chiede: non poteva essere un'allucinazione? No, è da escludersi, perché la giovane era perfettamente padrona di sé, e i raggi del sole non potevano giungere fino a quel remoto angolo. Ebbene, come affascinata da quella fiamma, la fissa per una decina di minuti. Poi, mancandole il coraggio di confessarsi, lascia la cappella. Ma attenti, il santo aveva letto nel suo cuore e il giorno seguente, passandole vicino dopo il catechismo, senza essere da lei interrogato, le disse: «State tranquilla, figlia mia, tutto andrà bene». E così, carissimi, anche per oggi abbiamo concluso. Ho buona speranza che queste cose facciano del bene. Penso proprio che l'uomo sia assetato di soprannaturale. Difatti là è la nostra patria, lassù, per cui ne sentiamo istintivamente la nostalgia. E quando si odono queste cose, ecco che il desiderio di Dio si ridesta, si risveglia, e il nostro anelito verso di Lui si fa più forte. Così abbiamo concluso. Ecco, prima di iniziare una breve lettura che farò adesso per introdurci nella Settimana Santa, vorrei leggere questa bella pagina scritta dal Vescovo di Como, Monsignor Alessandro Maggiolini, e riportata sul Messaggero di Sant'Antonio, che riguarda l'abito talare, l'abito dei sacerdoti, dei religiosi. Un bell'articolo apparso appunto sul Messaggero di Sant'Antonio che ci è stato fatto pervenire da un'ascoltatrice. Mi sembra che sia molto bello e molto opportuno da leggere proprio come introduzione alla Settimana Santa. Il titolo è «L'abito che fa?», punto interrogativo. Dice Monsignor Maggiolini: «È vero che l'abito non fa il monaco, ma di solito, prima o poi, quando c'è il monaco, salta fuori anche l'abito. Questione minore, addirittura futile, sì e no, sì e no. C'erano una volta preti e frati che vestivano nella vita di ogni giorno come se dovessero sempre celebrare un pontificale. Abito talare o simile, che cascava a pennello. Cocolla per i religiosi, scarpe con fibbie vistose, cappello alla Saturno o alla Pecos Bill, o tricorno con fiocco vagheggino. Per non parlare di nastrini multicolori, di cuffie, di pizzi e di medaglie per le suore, al punto da lasciare poco spazio alla fantasia per divise ulteriori». Dice: «Stiamo ai preti. La veste nera che giungeva fino ai piedi era elegante, forse un po' scomoda, ma elegante. Smagriva, allungava, dava una certa aria di solennità sacrale. Spesso la si teneva anche quando si giocava al pallone, e forse era troppo. Oggi non si pretende la talare giorno e notte, ma almeno un pizzico di proprietà, se non proprio di eleganza. E un segnetto come una piccola croce per far sospettare qualcosa a chi si incontra, forse non guasterebbero queste cose. Anche perché, a furia di essere come gli altri, non ci si è accorti che gli operai hanno camicia bianca coi polsini, cravatta e giacca. Solo o quasi i sacerdoti vestono come i muratori o i minatori di un tempo. Calzoni cascanti, bluse sbrindellate e pataccate, lavaggio e stiraggio perduti nel tempo, eccetera. Dimenticavo, spesso i bottoni o la cerniera dei pantaloni lasciati al vento. L'uso della veste in passato lascia qualche abitudine, ecco, perché sotto, chi mette la veste sotto è sempre un po' disordinato. I motivi dell'abito ecclesiastico, punto interrogativo, almeno di un esiguo segno di riconoscimento, ecco, risposta. Disarmatamente direi, il prete non è uno come gli altri. È uomo di Dio, della preghiera, della verità rivelata, della grazia attraverso i sacramenti e così via. Con un granello di malizia aggiungerei che il sacerdote dovrebbe farsi identificare come tale, anche perché spessissimo viene riconosciuto tra mille, pure se vuole camuffarsi. Tanto vale. E poi si ha vergogna a essere riconosciuti come preti? in un tempo in cui la gente ha un enorme bisogno di qualche richiamo al Signore, e anche gli insulti sono espressioni di fede alla rovescia. Verifica da fare. Si entri nello scompartimento di treno, lasciando intuire che si è preti. Dopo qualche momento di silenzio imbarazzato, si attacca subito una conversazione che lambisce la fede, o vuol cavarsi delle curiosità. In 25 anni e più di vita a Milano, ho confessato almeno 3 taxisti durante la corsa in automobile. C'è proprio da vergognarsi se si ammette che l'abito sacerdotale tutela anche da approcci squallidi o almeno da confidenze eccessive? E conclude dicendo: purché del sacerdote non rimanga soltanto l'abito, si capisce, perché si può usare il sacro per darsi una personalità untuosa, repellente, che non si ha. Ecco, mi pare un bellissimo articolo, chi volesse glielo posso fotocopiare, glielo posso mandare. Comunque era sul Messaggero di Sant'Antonio, sull'ultimo numero. Ecco, adesso, carissimi, siccome la lettura del Passio è molto lunga e noi stasera appunto non abbiamo impostato la serata sul commento della Passione, anche se i sacerdoti faranno bene a commentare la Passione poi in questo spazio fra le 22.30 e le 23.30, ecco, io introdurrei la Settimana Santa con la prima lettura di rito ambrosiano, che è il famoso capitolo 53 di Isaia, l'ultimo carme del servo di Yahweh, i primi 12 versetti. Ecco, mi sembra un modo molto opportuno per introdurci nella Settimana Santa, dato che questo carme ci parla del servo di Dio sofferente. Dal libro del profeta Isaia. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà il bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Parola di Dio. Beh, a questo punto io introdurrei questo breve momento di commento alla Passione di Cristo, che i sacerdoti potranno fare spontaneamente da casa, in attesa di collegarci con Toronto alle 23.30, con qualche parola di riflessione personale. Ecco, penso che per introdurre la Settimana Santa non occorra fare una gran predica, vero? Perché la Settimana Santa, coi suoi riti, direi che è già tutta una predica. è una predica di prim'ordine, perché si predica con le parole, ma forse più ancora con la liturgia. La liturgia possiede una forza, un fascino irresistibile, e ti fa vivere i misteri di Cristo in modo quasi fisico, direi, dove anche il corpo ha la sua parte, non solo la mente, il cuore, lo spirito. L'unica cosa che mi viene da dire oggi è la seguente, che cioè di fronte a questo servo sofferente di Yahweh, di fronte al dramma della sua passione, viene proprio da pensare quanto il peccato sia una cosa seria, se gli siamo costati così tanto. In questi giorni, in modo quasi ossessivo, mi torna in mente spesso quella famosa affermazione del Concilio di Trento, secondo la quale nessuno di noi, se non è per una speciale illuminazione di Dio, può conoscere con certezza il suo stato di grazia. Sì, noi possiamo essere moralmente certi di essere in grazia di Dio, d'accordo, altrimenti la nostra vita cristiana sarebbe continuamente in balia dell'angoscia. Ma tuttavia questa certezza non può mai essere una certezza assoluta, perché solo Dio riesce a vedere certe cose profonde. Dato che qui si tratta di una realtà, di una vita che sfugge alla nostra esperienza, al nostro controllo, ovvero la vita di grazia. E certo, se non riusciamo a conoscere il nostro corpo, tantomeno riusciremo a conoscere la nostra anima. San Paolo dice a un certo punto della prima lettera ai Corinzi: anche se io non sono consapevole di colpa alcuna, tuttavia, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. 1 Corinzi 4,4. E più avanti, nella stessa lettera, dice: tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. 9,27, 1 Corinzi. Come nella lettera ai Filippesi scrive, malgrado che sia una lettera sulla gioia, scrive a un certo punto: attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. Filippesi 2,12. Dunque nessuno di noi è sicuro di essere a posto davanti a Dio. Anzi, paradossalmente, succede questo, è che più uno è vicino a Dio, più uno è santo, e più è consapevole di essere un peccatore, appunto perché la luce di Dio lo illumina a tal punto che egli acquista una maggiore consapevolezza, una maggiore coscienza di essere un peccatore e di aver bisogno della grazia di Dio, quella grazia che appunto Cristo ci ha conquistato, ci ha meritato con la sua passione, morte e risurrezione. Iniziamo dunque una settimana, carissimi, che ci fa capire quanto sia serio il peccato e quanto siamo costati al Signore per liberarci dal peccato. Lo dice bene il profeta Isaia, l'abbiamo sentito prima, no? All'inizio della trasmissione. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Ecco dunque una settimana che anzitutto dovrà essere una settimana di riconoscenza. Ecco, riconoscenza per quanto Lui ha fatto per noi, anzi per quanto Lui ha fatto per me. Ognuno deve dire così, senza dimenticare che egli si offrì liberamente, spontaneamente alla sua passione, ossia non fu semplicemente un tragico destino cui Gesù Cristo si rassegnò perché così voleva il Padre, no, ma fu proprio una scelta volontaria, perché Cristo condivideva in pieno il decreto del Padre e lo eseguiva in spirito di obbedienza e di amore. E badate, Cristo nella sua passione è stato spinto, è stato motivato da un duplice amore. Amore a Dio, amore al Padre stesso, e amore a noi, amore agli uomini. Amore a Dio, perché sapeva che questo era l'unico modo per glorificarlo e per riparare il danno arrecato al suo onore e alla sua gloria da parte nostra, da parte dell'umanità. e amore agli uomini, perché sapeva che questo era l'unico modo per salvarci e per rialzarci appunto dal peccato, e quel peccato che di per sé ci avrebbe meritato l'eterna condanna. Dunque dobbiamo concepire questa settimana come una settimana di amore, la settimana dell'amore, ecco, dell'amore portato al massimo grado possibile, alle massime conseguenze. Un amore che però, badate, non vuole andare a vuoto, ma vuole corrispondenza, ma vuole essere corrisposto. Ed è proprio questo, carissimi, il grande impegno della Pasqua, no? Qui creavi te sine te, non salvavi te sine te. Colui che ti ha creato senza di te, senza la tua collaborazione, non ti salverà senza la tua collaborazione. Dunque ognuno deve sentirsi anzitutto oggetto dell'amore di Dio, d'accordo, ma anche soggetto della propria salvezza. La salvezza che è anzitutto un dono, una grazia, ma che è anche qualcosa che viene conquistato con l'impegno quotidiano nel bene e con la corrispondenza alle grazie del Signore. Ecco, solo così sarà veramente una buona Pasqua. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.